Ed eccoci come ogni anno con Elena Guerrini, che dirige la 10ª edizione del Maremma Veglia a Teatro con il Baratto a Manciano dal 14 al 18 settembre. Ben ritrovata. Ciao, ben ritrovati a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, per chi ci ascolta e non conoscesse questa formula, raccontaci un po' cos'è il Teatro a Veglia. A Veglia, a Teatro col Baratto, si esce di casa, ci si porta dietro una sedia, si va a comprare una bottiglia d'olio o di vino e si porta a teatro. Ci si siede sulla sedia che ci si porta da casa e l'artista viene ripagato con l'olio e con il vino che si compra e ci si porta da casa. Se poi fai il tuo vino, lo porti. Senti, questo è l'origine di quest'usanza. Insomma, è in Maremma, ma non solo, insomma, viene delle vaste radici. Allora, la radice appunto si chiama A Veglia, a Teatro con il Baratto, ed è appunto la veglia contadina, la veglia che faceva mio nonno quando lo vedevo uscire di casa con la seggiolina in mano. Dicevo: nonno, dove vai? E lui diceva: a Veglia. Quindi è la veglia contadina. Il Baratto era quello che si portava da condividere, era olio, formaggio, vino, prosciutto, da condividere la serata. Nel festival invece viene dato come incasso agli artisti. Anticamente la parola incasso era tutto ciò che stava dentro una cassa nelle compagnie di giro dell'inizio secolo, ma anche in quelle della commedia dell'arte. Addirittura mettevano una cassa per il denaro e una cassa un po' più grande per altro, e quindi un po' unendo insieme queste due realtà e aggiungendo a questo l'idea del baratto e artisti di nuova drammaturgia contemporanea, è venuto il Festival a Veglia, Teatro col Baratto. Mentre prima funzionava come era un momento di socialità in cui si chiacchierava, sostanzialmente ognuno raccontava qualcosa. Sì, era un momento di socialità in cui si chiacchierava, ognuno raccontava qualcosa. Qualche volta appunto nel Podere del mio nonno, alle pergolacce, arrivavano tante storie per la trebbiatura o per la vendemmia e raccontavano una storia, venivano magari ricompensati con la biada per il cavallo o con un po' di frutta, con l'olio, col vino, e ci si ritrovava nelle case a parlare più che altro. Ai tempi non c'era luce elettrica, ma c'erano le candele. Per esempio la mia nonna, se la gente che arrivava a Veglia era gente simpatica, teneva le candele grosse, così quando si spegnevano le candele finiva la serata. Se arrivava gente che non gli garbava di starci tanto a parlare, diceva: prendiamo le candele più piccole, così almeno finivano le candele e si andava tutti a letto. Ti parlo di tempi in cui appunto non c'era la televisione e ognuno portava qualcosa, portava più che altro quello che gli era avanzato dalla cena, e magari facevano tutta una zuppona insieme con un po' di carne, un po' di patate, un po' di verdure, e durante la veglia riscaldavano sul camino queste cose. Senti Elena, come l'hai tradotto in queste 10 edizioni, raccontiamolo a chi ci ascolta, quest'usanza, come si svolge materialmente il festival? Ma guarda, si svolge nelle case, quindi è il teatro. All'inizio la prima edizione si chiamava il teatro fatto in casa, perché i nostri teatri sono davanti ai portoni delle case private o dentro se sono grandi, o all'interno dei cortili o nelle piazzette. C'è una tecnica basica proprio, per cui un filo di lampadina uguale per tutti gli spettacoli, quindi non ci sono grandi fari da mille cose proprio, e addirittura la scenografia è quello che si trova dentro la casa, per cui l'artista che viene solo con se stesso e con la sua voce. E per cui si contatta il padrone di casa, si fa aprire la serata per lo spettacolo, gli si presenta all'artista. Molto spesso si fa anche una cena insieme al padrone di casa agli artisti. I padroni di casa aprono ai loro amici la casa e anche alle altre persone che arrivano, e si chiede a chi viene di portare un biglietto non monetario, quindi un baratto. Sì. Senti Elena, questa edizione raccontaci un po' come l'hai costruita, quali saranno gli ospiti. Sì, allora, ogni edizione, come tu sai, ha sempre un tema. Un anno è stato l'amore, un anno il lavoro, un anno è stato il mio primo spettacolo, per cui chiedevo agli artisti di portare il loro primo spettacolo, per cui un po' quelli famosi hanno portato lo spettacolo fatto 20 anni prima quando nessuno li conosceva. Il tema di quest'anno è accoglienza e gratitudine, ispirata a una frase di Don Gallo, che è quella: io vedo che quando allargo le braccia ricado, un'accoglienza vuol dire costruire dei ponti e non dei muri. Ecco, il Festival a Veglia quest'anno cerchiamo di costruire dei grandi ponti, iniziando con la compagnia teatrale, Centro Teatrale Mamimò di Reggio Emilia, con Scusate se non siamo morti in mare, che appunto su questo tema accoglienza e gratitudine è importante. Proseguiremo con un mio studio intitolato Le vie delle donne, che parla di toponomastica al femminile, sul perché ci sono o non ci sono delle vie dedicate alle donne. Nel paese di Manciano non ce n'è neanche una, in altre città ci sono, ma più o meno il 4% delle vie sono dedicate alle donne, tutto il resto agli uomini o a fatti storici. Quindi nel cortile di Elena La Sarta, è un piccolo cortile su una stradina del centro del borgo, ci sarà appunto il mio studio. Io ogni 2 anni presento uno studio nel festival dove sono direttrice artistica. E il giorno 17 invece avremo da Roma i Tè de Bois, con sia la presentazione del libro di Andrea Tatta, Mamma quante storie, sia la presentazione del libro di Tinso Arapinto su Enzo Darré, Lavorare con lentezza, sia il concerto spettacolo dedicato a Leo Ferré di Tè de Bois la sera, e la proiezione del video Alfonsina e la bici di Agostino Ferrente. Quindi insomma una giornata dedicata a questa tematica dell'accoglienza, e finiamo il 18 con Ricchi di Cosa, Poveri di Cosa di Livia Grossi, sempre a Manciano questa volta. Senti Elena, com'è l'accoglienza nel paese, insomma, che vi ospita da 10 anni? Allora, l'accoglienza nel paese che ci ospita da 10 anni è fantastica, perché non smetto mai di ringraziare tutte le persone che ci aiutano, perché noi riusciamo a fare il miracolo di fare un festival teatrale con soli 5.000 euro di finanziamento comunale. Sì. E tutto il resto ci viene donato dai ristoratori e dagli albergatori, per cui riusciamo a fare un festival che potrebbe costarci intorno ai 30.000 euro con solo appunto questa cifra, perché gli artisti sono ospitati gratuitamente negli alberghi del territorio, vengono dati i buoni pasto, e quest'anno ci sarà anche un'iniziativa nei ristoranti in cui si potrà pagare il caffè con una poesia. Non è intervista a sé, ma tutti i ristoratori di Manciano che espongono l'adesivo Un caffè per una poesia ti offriranno un caffè in cambio di una poesia che verrà scritta sulla nostra locandina, che come ogni anno è illustrata da Chiara Rapaccini. Benissimo. Senti, per saperne di più, tutto sul programma dove si può trovare in rete? Allora, il programma da domani potrà essere sul blog Aveglia, teatroabbaratto.blogspot.it, a cui si può accedere anche dal mio sito elenaguerrini.it e dalla pagina Facebook, ma ancora no, da domani. Abbiamo fatto oggi la conferenza. Bene. Senti, tra l'altro anticipo che la prossima settimana manderemo in onda la registrazione di uno degli spettacoli che ospitate quest'anno, Scusate se non siamo morti in mare. Quindi, è lo spettacolo con cui noi apriamo il festival. Esatto, lo possiamo annunciare perché già ci siamo contattati, abbiamo la registrazione, e quindi lanceremo anche la data di Manciano a questo punto, da martedì prossimo, i giorni prima del festival. Benissimo. La settimana prossima, per cui buona visione, buona udizione, perché sarà una cosa uditiva, e spero che chi lo ascolta in radio venga poi a Manciano a vederlo, facendosi appunto un fine settimana a Manciano al Festival a Veglia Teatro col Baratto. Noi ci si vede a Manciano, Elena. Ci vediamo a Manciano. Ciao, un abbraccio. Un abbraccio, ciao.